27 maggio 1940. L'altro giorno mi sono sentita rincorrere per la strada. Era Moretti, un ragazzone altissimo e bruno, con uno splendido corpo d'atleta e un viso semplice e luminoso. Bellissimo, sensibile e buono, ma poco intelligente. «La devo salutare perché parto!» ha detto, e le labbra gli tremavano. Ho capito subito, era stato richiamato. «Per la Libia!» ha soggiunto. «Non voglio andare così lontano, con tanto mare di mezzo, e non ho ancora fatto il soldato. Il servizio militare lo voglio fare in Italia.» Protestava come un bambino, diceva «voglio» e doveva andare soldato. Intanto aveva gli occhi pieni di lacrime. Aveva ricevuto la cartolina insieme al fratello e aveva la mamma malata di cuore. Non si sentiva il coraggio di avvertirla e per lui, vissuto sempre in un villaggetto di campagna, la Libia sembrava tanto lontano. Gli ho detto di salire da me. Non volevo che lo incontrassero i suoi sciocchi compagni più giovani e in pericolo meno immediato, che avevano guidato per le piazze quelle stolte manifestazioni. A casa c'era Loretta e Gia, e poi anche Aida. Gli abbiamo offerto cognac e sigarette. Lo abbiamo lasciato parlare, gli abbiamo detto un sacco di bugie. Si è tranquillizzato. Diceva ripetutamente: «Non ho paura della guerra», come per convincersi. «Ma non vorrei morire con gas asfissianti.» Lo abbiamo rassicurato, francesi e inglesi non avrebbero usato gas. Gli è sfuggito spontaneo, quasi inavvertitamente. «Povera Francia, mi dispiace.» E allora gli abbiamo fatto una sciocca raccomandazione: «Non far male ai francesi e agli inglesi, uccidili, ma non fargli male.» «Ma gli inglesi sono cattivi», ha protestato. «Ci volevano affamare.» «Non è vero? Non ci volevano nemici.» Abbiamo gridato in coro: «I nostri veri nemici sono i tedeschi.» E per questo dobbiamo fare la guerra, perché altrimenti saremo schiavi della Germania vincitrice. Bisogna che l'Italia sia grande per opporsi alla sua violenza e frenarla e dominarla.» Mi ha detto: «È vero che Hitler ha il cuore cattivo?» «Sì, molto cattivo.» «Ma il duce è buono?» Ho mentito. «Il duce è italiano, deve essere buono.» «È latino, vero?» «Sì, è latino.» Strana questa sua latinità che tradisce la propria missione e si rende schiava del germanesimo. «Che cosa dovrò fare al fronte?» mi ha domandato. «Obbedire, ragazzo mio, e amare l'Italia.» Domanda a me queste cose di cui io pure non so nulla. È andato via ridente e fiducioso e ha cominciato a confortare noi, rassicurandoci. Così è partito con l'illusione di essere forte e di doverci sostenere. Ci ha promesso di scriverci e di venirci a salutare prima di partire. Lo vedrò ancora per alcuni giorni sui banchi di scuola, ma lo guarderò io con rispetto. Questa mattina lo avevo interrogato sul paradiso di Dante. Ha risposto molto bene e ha detto che lo trova bello, mentre i suoi compagni dicono generalmente che è difficile. Eppure lui non è intelligente. Mi ha detto un giorno: «È vero, signorina, che per Dante il paradiso è soprattutto luce?» Aveva capito benissimo.